Continuiamo a raccontare gli tanti eventi che si organizzeranno e vengono organizzati e si stanno già svolgendo nella Bologna dell'estate 2021, dopo l'incubo, insomma, di questo inverno che segue al 2020. Una rassegna che ci piace raccontare è Pontelungo Summer Festival, e noi ne parliamo con il direttore, che è anche una voce che conoscete qui dai 100-300 di Radio Città Fujiko, perché è il nostro Mario Box De Salvi. Ciao Mario. Ciao a tutti, ciao. Come stai intanto? Magnificamente, devo dire che questa inaugurazione di Pontelungo ci ha rimessi un po' tutti al mondo. Finalmente possiamo goderci un po' di aria fresca e un po' di divertimento. Certo, ancora non si può ballare, però su tutto il resto ci siamo, insomma sta andando molto bene. Esatto, allora intanto ricordiamo dov'è, perché magari non tutti i bolognesi o i non bolognesi lo sanno. Via Gucchi 121, zona Santa Viola, quindi praticamente andando verso Borgo Panigale, subito dopo l'ospedale maggiore e l'Estelunga di Santa Viola. Sulla destra c'è questo parco bellissimo, quello della polisportiva Pontelungo, laddove abbiamo riqualificato una bocciofila ricavandoci un'osteria, e sul prato adiacente abbiamo un bel parco 10x6, il baretto, e abbiamo messo anche le balle di fieno che fanno molto far west, e lì ci rilassiamo. E a questo punto ti chiedo un po' quali sono gli artisti, gli eventi che si terranno, insomma, già da stasera, poi nei prossimi giorni. Allora, già da stasera, tra poche ore, insieme al Red Club di Bologna abbiamo Amanda, l'aperitivo aperto molto qui a contatto di drag queen e quant'altro. Domani, che è 2 giugno, quindi quasi come se fosse una domenica, e abbiamo karaoke indie, cioè tu arrivi là, ti iscrivi, ti scegli la canzone, c'è una band che suona e tu proprio puoi cantare tu, come il karaoke ma con la band vera. E dopodiché abbiamo DJ set, abbiamo hip hop, abbiamo un mucchio di concerti e di festival, da Reno Splash, che ha trovato casa da noi, a Gogo Bo, che tornerà anche quest'anno per la sua seconda edizione, a Canapa Festival, passando per i live di Giorgio Canali, di Giancane, Ruggero Dei Timidi, forse Morgan, forse, speriamo, Marco, vieni, ti stiamo aspettando, avremo Inoki, avremo tante altre cose che ancora non posso annunciare ma che sono confermate, quindi restate sintonizzati sui canali di Pontelungo Summer Festival, sia su Facebook e Instagram che sul sito ufficiale. Tra due artisti che non hai citato ce n'è uno che abbiamo sentito, una band che abbiamo sentito la settimana scorsa, sono le Altre DB, che saranno il 18 giugno. Assolutamente, Altre DB, che tra l'altro vengono per fare il release party di Sdang, che è l'ultimo album uscito, e Altre DB li ho voluti fortemente, intanto perché voglio molto bene i ragazzi, poi perché sono un fan, e poi perché quando loro vengono a suonare, insomma, chi partecipa, il pubblico che partecipa è un pubblico con cui abbiamo una certa affinità, ci piacciono, è gente che ama veramente la musica, e quindi il pubblico adatto da partecipare agli eventi di Pontelungo. E poi per Paolo Capovilla, De André, insomma tanti sì, altri. Sì. Ecco, come si fa a partecipare? Perché sai che le norme anti-Covid impongono ovviamente delle attenzioni in più. Come vi siete organizzati? Allora, ci siamo organizzati innanzitutto rispettando le regole, che è una cosa fondamentale, lo dico non per insomma per piaggeria, né per apparire ben pensante, quanto perché è indispensabile. In una situazione pandemica bisogna rispettare le regole se vogliamo rispettare noi stessi e anche gli altri. Quindi all'ingresso trovate un buttafuori o più buttafuori a seconda dell'affluenza, che misureranno la temperatura e prenderanno il contatto. Dopodiché all'interno c'è una disposizione geometrica che apparentemente non c'è, sembra tutto molto libero, invece c'è, ed è fatta per far sì che venga rispettato il cosiddetto antipaticissimo distanziamento sociale. Si tiene la mascherina tranne quando ci si siede per mangiare o per bere, e questo vale tanto per il prato quanto per l'osteria La Bocciofila, che è la novità di quest'anno, dove serviamo cucina tradizionale che sta andando fortissimo. E volevo anche dire che la scorsa estate, che è stata più breve perché è partita più tardi ed è finita prima per le ragioni che tutti sappiamo, abbiamo registrato un'affluenza di oltre 30.000 persone e 0 casi di contagio, e questo lo si deve principalmente alla la meticolosità con cui mettiamo in pratica appunto il rispetto del regolamento. Ma bisogna prenotarsi prima? Ci sono biglietti, come da questo punto di vista? Allora, quasi tutto il festival è a ingresso gratuito, eccezione fatta per Gogo Bo e poche altre mosche bianche che annunceremo presto, però indipendentemente da questo ci si prenota principalmente per mangiare in osteria, a meno che non ci siano spettacoli particolari, dei dinner show come nel caso di Az, che è lo stesso spettacolo delle drag queen che sarà venerdì prossimo, o del burlesque che sarà domenica 27, allora in quel caso è indispensabile prenotarsi proprio per prendere posto davanti al palco. Beh, insomma, intanto grazie Mario, e dove si può vedere il programma? Il programma si può vedere sui nostri canali social, quindi è sufficiente digitare Pontelungo Summer Festival, tanto su Instagram quanto su Facebook, oppure il sito web ufficiale pontelungosummerfestival.it. Perfetto, allora in bocca al lupo e insomma, buoni concerti. Grazie, vi aspettiamo, grazie a tutti.